scusa Robè, ma stai parlando di per chilometro? Le gare le facevano al chilometro. Questa salita e discesa è vero, scusa. Questa? Salita e discesa. Non al chilometro, no. Andavamo al chilometro e scendevano la Budibundi. Ah, infatti al chilometro è pianura. No, io dicevo il chilometro, poi giravano la Budibundi, arrivavano, non so se a Graziella dove arrivavano, e poi dovevano ritornare. E comunque l'hanno rovinato con le rotatorie, che era più bello prima. Ma già nel bolso a bocca di niente, dai, per certi versi già è meglio, dai. Hanno fatto in modo che la strada sia un pochettino più tranquilla, magari i limiti di velocità sono un po' più alti, puoi scenderci un po' più veloce, però è più protetta. Quanta gente è morta in quella strada, non ne parliamo, così dalla 131 scende la Platamo. Ok, scusate il monopolio, adesso io direi di far riprendere a Riccardino, che è da parecchio in parcheggio, e poi riprenderà Claudio o Gianni Caprino da Muro. Prima Riccardino, avanti Riccardo. No, non c'è problema, stavo ascoltando queste storie del moto interessato e no, niente, già ero interessato, ero in ascolto. E comunque faccio riprendere a Muro. 5SL, grazie Riccardino per il microfono, sì, sono messi, devo dare un evento sulle signor. Diciamo che a me mi piace molto le moto, cioè quando parlate di questi discorsi per me sono veramente interessanti. Sì, riguardo al discorso della Kawasaki, l'ha avuta anche Babbo, il 750 tricilindrico era, sì, a due tempi, l'ha dato parecchie mie. Gianni, colpa tua, mi. Ducchi, GT380. Un attimino. Indri, due tempi, che anche quella, e diverse Ducati, ha avuto anche Scambler, Babbo, sì, prendilo questo. Sì, aspetta, chi era? Claudio, o mi Claudio, scusa, Gianni, stai parlando tu o Tonino? Tonino, avanti. No, io non ce l'avevo con Gianni, papà. Detto che era colpa mia, ma non ho capito di che cosa. Vabbè, comunque, riprendo io perché tocca a me adesso, non vado di rilanciato ieri a Trio. Va bene, dai, ok. Comunque li ho visti tutti io, quelle gare, quelle cose, anche al chilometro, c'era gente del Sacro Cuore, c'era Ciolle che c'aveva la Vespa, che aveva il rapporto di Raffaella 175 con il rapporto della Lambretta, che cosa quanto camminava. Allora, la Vespa più veloce, la Sasso, la più potente l'aveva fatta Mariani e l'aveva fatta a coso, a un amico di Fabrizio, amico suo e amico mio, dico solo il nome. Mentre il sì più veloce di tutti, che era una cosa da paura, però c'era il massimo di lavorazione, che sembrava un fischio quando camminava, sentivi questo rumore, così ce l'aveva Paoletto Lascana. E il sì camminava duro, faceva il centro. E poi delle moto, io c'avevo un Benelli, appena modificato, però modifiche fatte da chi le sapeva fare, con lui abbiamo fatto 105 km orari, cronometrati, al Benelli 125 l'ho passato, al Vespone solo il 200 riusciva a starmi vicino, gli altri al 125 li stavo accelerando un fianco così, vrum, vrum, vrum, proprio per farmi vedere che non l'ho passato, ha fatto 105 km orari con la moto lì, c'avevo i rapporti lunghi, aspirazione scarico, e altri lavoretti, marmite eccetera eccetera, è durato un anno questa moto, ma poi è scoppiata quella di Paoletto Lacana, ne avevano fatto i rapporti apposta, costruiti, che poi erano andati a finire a mio fratello, è stata tutta una storia, perché mio fratello sulle moto preparate ha provato tutti i tipi di motori, tutti i tipi di modifiche possibili e immaginabili, è stato il primo a Sassari che ha avuto la moto con raffreddamento al liquido, il coso, il sì raffreddato al liquido con i pezzi Simonini, non ce l'aveva nessuno, cose da fuori di testa. Poi alla fine ha mollato tutto, dai, quando diventi più grandicello, ma da noi, lui avrà cambiato, c'era il record, è riuscito a cambiare 7 motori in una settimana, non uno, 7 diversi tipi di motori con elaborazioni diverse, Simonini, DR, Pinasco, Laganello, cosa cavolo non ha messo di pizzi, in una settimana 7 volte. Vabbè, ma parlavi del Benelli, ce l'ho che costruito io, due marmice verde. A me sì, me l'ha preparato Mariani quando ero al quadrato, te lo ricordo. No, io sto parlando quando ne avevano messo, però se tu chiedi a Mariani, glielo puoi dire, fagli anche il nome mio, perché tanto mi conosce benissimo, tu dici, signor Mario, chi è il più esasperato che ha fatto lui? E ti dirà quello lì, tra l'altro il nipote, Paoletto Lacana è il nipote di Mariani. Vabbè, ma il Benelli, quello verde, dove mi stai parlando? Io sto parlando di un 50, di una moto 50. No, 125 parlo io. Se l'hai conosciuto quello lì. E certo che l'ho conosciuto, con quello giù c'aveva un amico mio, ho fatto la gara, grigio metallizzato, il TG 125 mi sembra si chiama. Io l'ho anche guidato. E quella moto lì, io l'ho passata in coso, vabbè l'ha passata anche col ciao, col piaggio, col sì l'ha passata, però a Monte Bianchino la gara l'abbiamo fatta in discesa, non in pianura, sicuramente era più veloce, però in discesa ce ne siamo andati uno e l'altro. Al Vesponi li stavo a fianco, in pianura senza neanche andare a manetta, a colpi di acciaio, li stavo vicino attaccato. E Vesponi faceva 90 proprio a tre quarti, neanche a tutto acceleratore, a tre quarti di acceleratore. Però c'avevi un'elaborazione particolare, non perdeva giri, la moto più discesa c'era più velocità faceva. Gli altri andavano fuori giri, io lo so che la gente è venuta a sfidare, a fare le gare, da tutto Sassari, anche dai paesi, non ci ha mai battuto nessuno. Così con i Carruzzi sono venuti da tutte le parti di Sassari a fare le gare. Io lo sapevo cosa dovevamo fare con i cuscinetti di quelli giganti, pesante che non ne poteva più, sedile di goccarde in ferro, tutto quanto era pesante, a due posti era il nostro, con il comando frenante e tutto, quattro ruote, tutte le strutture dei cose, dei cuscinetti e la guida in ferro con tubolare in ferro, gli altri venivano con i carruzzini in accelerazione e se ne andavano. Gli ultimi 20 metri, boom, li battevo tutti, gli ultimi 20, non ci ha mai battuto nessuno. Perché non è mai gareggiato con me con un carruzzo? Io prendo per cuscinetti dalla ferrovia, mi davano dall'ufficio della ferrovia, lo mettevo quello grande davanti e quelli piccoli dietro, ce l'avevo a tre io, era tutto elaborato il mio. Facevamo le gare a San Croce, non so se c'è presente, dove c'è la scuola, un po' più su, scendevamo sì ad arrivare al tabacchino, gareggiando, perché lo sai, vicino al mare, per poter ce l'ho precipitato, siamo scappati. Lo sai perché non ci battevano noi già, per questioni fisiche, leggi fisiche, c'avevo i cuscinetti più grandi di tutti gli altri, c'era un amico che poi li aveva portati di una motosega, di una motosega, una sega circolare, che il padre era falegname, lui ce l'aveva ancora più grandi dei nostri, io li vincevamo noi perché i nostri erano più grandi, tu più massa circolare c'hai, più diametro e più velocità raggiungi, noi loro tutti se ne andavano in velocità e in accelerazione nei primi 50 metri ci battevano tutti, con le invece facevano vum. Quando riusciva a raggiungere la velocità massima l'inerzia era il doppio degli altri, proprio gliene passavi a fianco, poi si ammazzavano i buru, quello c'aveva una stabilità il nostro perché era largo, era pesante, guarda senza esagerazione non meno di 40 kg perché era lungo, a due posti era, c'avevamo l'alettone dietro con quattro cuscinetti, non a tre, tutti erano a tre, pigliavano la guida, si ammazzavano, quelli nostri erano stabili, una stabilità, e poi centrale c'era una staffa in ferro per bloccarsi, non ci ha mai battuto, guarda, tu puoi chiedere nella zona di tutte le parti se qualcuno ci ha battuto con quei cuscinetti lì, erano, dicevamo perché erano più grandi, non perché eravamo più bravi degli altri, perché avevamo i cuscinetti giganti, gli altri venivano con i cuscinetti piccoli, arrivano a un certo punto come raggiungere la velocità massima di rotolamento, più di quel tanto non va, è una legge fisica, mentre i nostri più ce n'era più giravano, perché erano enormi, stiamo parlando cuscinetti di 20 cm di diametro. Io li faccio quel legno, ma tu devi vedere come li facevo. A me mi ha imparato tutto a fare legname, che era amico di mio padre, che era vicino al Bucciuppi, la Sacro Cuore, che adesso tanti anni fa, forse Giulio l'ha conosciuto. E fatto sta che praticamente ce l'avevo fatto bene, tutto quanto con cuscinetto, per sedirti, i fronzoli li abbiamo messo nel manubrio, il freno, l'abbiamo fatto il freno a mano, e praticamente era un bastone piatto con un chiodo e alla fine ci aveva un pezzo di gomma di macchina e quando tu tiravi si frenava il cuscinetto, uno solo si girava infatti. Aspetta, scusate, ma pure adesso vi racconto un altro particolare, per queste cose mi appassiono. No, il freno nostro, a parte erano, dove erano fissati i cuscinetti erano dei tubi, tipo tubi d'acqua però grossi, perché dovevi farli, erano stati, non so quanti pollici di diametro, un pollice e mezzo, non lo so, saldato il cuscinetto a quattro ruote, molto largo, di lunghezza sarà stato un paio di metri il carruzzo, largo, 40 cm, c'era il sedile tutto in ferro, erano di un vecchio goccardo in ferro, con l'inrollo roll bar, erano diverso dagli altri, dai, non stiamo parlando di quelli classici che usano tutti a tre ruote davanti una. Poi quando è un 4-5 anni fa, non so se conoscete la gara dei Carruzzi che fanno quando c'è la festa delle matricole, è venuto mio nipote, che lui adesso fino all'anno scorso era il pontefice questo del coso, e mi ha detto sì, me lo fa, sì, vabbè, mi chiama per nome anche se è mio nipote, se gli facevo un Carruzzo. Gli ho detto: cosa vuoi, un Carruzzo per vincere o un Carruzzo per fare scena? No, no, vogliamo, dobbiamo vincere. E gli ho costruito un telaio su tubolare, perché di lì devi rispettare il coso, le misure dei cuscinetti. Però il telaio l'ho costruito, poi gli abbiamo messo il volante di bicicletta per guidare. Gli ho detto: stai attento che questo è pericoloso, si sono ammazzati. Il primo passaggio si sono ammazzati. Ammazzati, ma proprio volati, si sono incutti, meno male che si sono sbattuti dal coso. Però hanno fatto, hanno vinto loro il secondo passaggio, perché di lì vince chi arriva più lontano. Sono scesi da Viale 30 e hanno superato la farmacia, sono quasi riusciti ad arrivare in Viale Umberto, e sono stati, però ho detto state attenti che quello è pericoloso perché prende troppa velocità, e ha vinto con quel Carruzzo. Ma quanti anni fa, Robert? E stiamo parlando, ma non voglio dire che se 5-6 anni fa, se tu sei andato a vedere la gara dei Carruzzi, era quella scena che loro avevano una bambola gonfiabile che li ha preso, hanno preso male, perché infatti hanno detto camminate piano senza freni, hanno detto mettete i freni, che questo non riesce a fermarlo, perché quando pigli velocità è un bel pesante, l'inerzia arriva. Ha superato l'incrocio di Viale Caprera, di lì c'è un avvallamento che c'è una specie di coso per lo scarico del tombino, lì si è girato di traverso e sono entrati, si sono puntati e si sono sbattuti al marciapiede più giù dall'Ariston, scendendo dalla parte dell'Ariston, è volata questa bambola, sembrava una come si chiama, una donna, infatti tutti spaventati strillando, morti, sono morti, e si sono sbattuti al coso, al marciapiede di controsenso. Se, come si chiama, tu vedi la scena, sembrava un film di gozzo, di quelli di azione. Questa bambola da lontano sembrava una donna volando, perché l'avevano tutta vestita, e tutti si sono cagati sotto, perché chi non sapeva che era una bambola, c'era la madre, era terrorizzata, mia cugina, quando ha visto la scena, perché lei non sapeva che c'era la bambola, e sembrava una ragazza a volare, e si è sbattuto al muro di fronte. Era una scena da paura, però era una mamma, loro, tu devi vedere lo spavento, ho detto, allora vedi che te li hai messi i freni, l'anno dopo si hanno messo i freni. E io ti dico una cosa, che quello spettacolo l'ho visto in diretta, perché io stavo facendo servizio fotografico, c'era anche mia figlia che scendeva col Carruzzo, quell'anno lì. Sì, non lo ricordo benissimo, sono andato apposta per fare, e tra l'altro praticamente ero in una posizione che io mi avevo preso da mattina presto, è venuto quello della Roma Sardegna, quello con i capelli lunghi, mi ha dato lo spintone per mettersi, ho detto scusa, ma ci sono io qua, ma te vai, sto lavorando, anche io sto lavorando, ciao, avviati, sono dalle 7 di mattina, io qua per fare le fotografie a mia figlia e tu che ti metti davanti. Forse c'era qualcuno sotto, in sottofondo, però ti ho sentito tutto, Gianni. Che era, Tony, tu? No, assolutamente no. No, allora sono questi qua in coso, in FM. Dai, facciamo riprendere un attimino a Claudio da Muro. Sono avanti, Claudio. Sì, qua c'è il roba, sì, è divertente quella scena della bambola che ci ha raccontato. Sì, vado avanti, sto ascoltando come ha detto questa storia del remoto, però io non ne ho mai avuto, al massimo solo quad. Sì, già l'ho visto il quad, ma una domanda, ti stai aiutando tu, Claudio? 9 più 20, cacca la faccia, stavi schiacciando a tutti qua di segnale. 9 più 10 se è così, no va benissimo. Ok, Tony, avanti. Sì, mia figlia l'aveva registrato, diciamo, quello che scendono i Carruzzi da Viale 30, ne ho visto un po', potevi dirmelo, ci sarei stato anch'io a guardarmi, ragazzi. Ne fanno ogni anno, ce l'hanno verrato, guarda che le fanno, vabbè. Il periodo delle feste matricole intorno al 14-15 di cosa, di dicembre, 13-14-15 mi sembra che sia. Ok, vuol dire quest'anno andrò a vedermi, perché mi sono piaciuti i filmati che ho visto, però non l'ho mai visto. Quest'anno si è fatto male qualcuno, lo stesso mi hanno fatto vedere la caduta, brutti brutti. Ma io mi affido, detto, ma che coraggio c'hai a scendere in campo senza freni, senza nulla? Quello dove c'era mia figlia era senza freni, completamente senza freni. Ma io gliel'avevo messo i freni già, cazzo, gliel'ho fatti, ma fatti in ferro, cioè robusti, che proprio blocchi una leva, non mi ricordo di che cosa era, proprio in metallo saldata con il bullone in modo che tiri, ecco. No, no, no, e poi gli ho detto scendete piano, perché cacchio qua, invece ci hanno dato la spinta, sono partiti a manettone, infatti ho detto ma voi siete scemi, infatti lo sapevo che finiva così, perché il volante, loro hanno voluto mettere il volante, abbiamo messo una focera di bicicletta modificata, abbiamo saldato il manubrio della bicicletta per guidare il coso, le ruote, ma era troppo esagerato, cioè il carico di non riuscivi a regolarti, cacchio, come hanno imbillato il colpo, tu vedi il volo che hanno fatto qui. Sì, perché gli ha sbagliato, dice gli ha sbagliato dietro, io l'ho visto proprio come è successo, infatti mi diceva che è stato pure lui. E quest'anno non mi ricordo se è caduto lui lo stesso, però era tutto protetto, poi li dovevi vedere facendo i fighetti, gli ho detto ti devi mettere i guanti, mettiti le protezioni, il casco, erano senza protezioni, gli ho detto voi volete essere su questa, ma come diceva un amico mio, Nostra Signora del Rugatrame volete ascoltare. Ne ho visto uno di ragazzo quando c'era l'ospedale, si è andato a fare le lacce, che ha detto quanto una crosta in faccia, tutte le battonere. Non dirlo a me, cazzo, uno davanti a me, a Pratamona, l'hai visto tu la via dove c'è di fronte al coso, lì dove punta bianca, dall'altra parte della strada dove c'è il canalone, dietro di lì, questo qua era con un Suzuki mi pare, non so che cosa, era in costume da bagno, a petto nudo in ciabatte, camminando un me, di lì c'è tutto l'avvallamento delle radici dei pini, ci ha preso questa strampata già, cioè, ma, tutto macinato, cioè, non aveva una parte del corpo, dalle braccia, il viso, il petto, le gire, era tutto mangiato. E avrà rotolato come no, non ha rotolato, lì fa rasciato, guarda ti sto dicendo già, lo devi vedere in che condizioni si è fatto, tutto mangiato, ma io dico se vai in moto, cacchio, mettiti le protezioni finché sei con un ciclomotore, ma quando vai con una moto del genere, che è anche pesante la moto, guarda fuori di te, io conosco uno che questo adesso infatti dice da allora io quando vado in moto mi metto i guanti, perché se le ha mangiato non ha più le dita, tutte le parti superiori delle dita non esistono più, se le ha mangiate in terra. No, io ho sempre messo il giubbotto con i paracolpi quando andavo in moto, tutto quanto. No, no, non fa. Già sono andata anche in cartoncini, la vita un po' scoprita, sono stata a dare i cartoncini estate, ma e solitamente mettevo sempre il giubbotto. Mai cartoncini, sempre minimo i jeans, ma stiamo scherzando con la moto là. Guarda, io ho un operatore, mi hanno fatto le braccia per una caduta di moto, un cinquantino, in una strada, in un viottolino, stavo scendendo un pochettino veloce, non sono riuscito a controllarla, ha rimbalzato su un fozzo e sono caduto. Mi sono mangiato tutto il gomito, mi hanno fatto una plastica sul gomito, c'era ancora le cicatrici. Sono stato 3 mesi col braccio, che io non potevo muovere il braccio perché c'era la pelle, me l'hanno tagliata, ricostruita e tutto. Ma non dico cosa ho passato, infatti ho detto boh, con le moto finito. E infatti non le vuoi sapere più, ho detto Roberto stava, mi sta parlando di moto, quando ho detto, ho detto no, no, con le moto io finito. Ma lo sai quante ne ho io di moto? Una mare. Ma tue? E mie. Ma a me piace guardarmene anche le moto, cioè dovessi usare te ne vai in pista e boh. Un'altra volta mi stavo ammazzando con il Suzuki DR Enduro, ma giù non mi ammazzo, dalla strada dall'officina, vedi lì, abituato facendo il fighetto, prima, seconda, terza, vado a scalare, cacchio, buttarli e vado a frenare e poi scalare, cacchio, la moto ci è uscita dritta, ho fatto la curva dove ci sono io, non l'ho presa, sono andato dritto e sono salito e marciapiede, giù mai non mi schiaccia un tipo, mi ho visto la morte in faccia, proprio la macchina schiacciato, quello poi era distratto, c'aveva il giornale nel volante, si stava guardando il giornale, cioè non ha neanche frenato, io sono riuscito a salire sul marciapiede dalla parte opposta e sono salito sul marciapiede, abituato per dire, convinto che frenasse la moto, proprio non ha frenato, ci è andata dritta, nella curva non l'ho fatto. Ma non funzionava né freno? Sì che funzionava, ma ero troppo veloce, sono entrato troppo veloce perché ho detto adesso mi do il colpo di freno e scalo, invece nuda, la moto è andata dritta. Così è brutto. Io l'unica volta che mi hanno visto a vita è uscito un cane in curva ed ero a 160. E se frenavo mi ammazzavo, l'ho scartato il tonicchio, l'ho sfiorato tutto. È pericoloso. Ma guarda che anche in macchina ti trovi un cane di un patrone tedesco, sono tanti frutti, sta correndo bene. Non sai quanto mai portato le macchine di cani che tu dici non è possibile che abbia fatto un danno nel genere. Ho visto una macchina poi la demolita, cosa ha fatto di danno sui longheroni, ne ha sradicato il coso, gli attacchi le zampe del motore, un cane, cioè tu dici non è possibile, sembrava un incidente di macchina, ne ha sradicato il motore. Io mi ricordo tantissimo tempo fa, avevo la Ford Escort a Porto Torre, stavo camminando a 70, non di più, e mi è passato all'improvviso un carrerandaggio, una bella taglia, mi ha sollevato la macchina. A quello che c'ho vicino a me, c'ha una Citroen C5 con la biturbo, con la super potente eccetera eccetera, dice lui era sui 160 in macchina, ne è uscito il cane, ha preso la macchina, si è messa di, si è capotata tipo stuntman di fianco, si è sollevata a 45 gradi di fianco la macchina, dice è riuscito a tenerla e poi l'ha raddrizzata, ma tu vedi come ti sei fatta la macchina, è riuscito a tenerla perché si è messa a 45 gradi la macchina. Il motore parliamo che il motore si è veloce, se caggi si è fritto. Io molte volte con il Kawasaki stesso, a volte avevo 220, 230, poi c'è per me, cazzo mi è basso un cane, invece qui che frenavo di colpo, rallentavo, cioè scalavo, c'era anche se vuoi freno praticamente. E dirò che da quella velocità scendevo anche a 120, 100, perché se pensavo, se mi esce un cane mi ammazzo un attimo, perché non ci piace, non si è buco, capito? Ma non si è veloce così, fa un pezzo buco. Io ho visto una moto correndo, mi è arrivata l'altro tempo, ancora c'erano dei fusi. E in più c'era l'aggiunta che era stata portata dell'asfalto, come l'avevano fatto tappati i buchi, no? Come fanno? C'era l'aggiuntura proprio dell'asfalto, quello lì ha preso, è andato in mezzo all'aggiuntura, ha cominciato a sculettargli la moto, cazzo, guarda, io non so come ha fatto a tenerla lì, così così che non cade. Io già l'ho visto l'incidente mortale davanti a me, tutti e due li conoscevo, quello che è morto e quell'altro che si sono trovati. È successo una ventina di anni fa, forse anche di più, più o meno 20, 22 anni, no, cacchio di più, probabilmente 25 anni fa. Il bivio di Tutubella era una greppa, era il giorno di Pasquetta di un 25 anni fa, dai. Era una greppa di motociclisti. Guarda, quando li ho visti correre ho detto, insomma, questi si fanno male, si fanno male. La prima cosa che ho pensato, quelli che tu passa uno, poi l'altro lo sorpassa, beh, e sono passati da Alghero verso Sassari. All'altezza del bivio di Tutubella erano tutti in fila, uno dietro l'altro, qualcuno si sorpassava, c'era questo tipo con un 850, una macchina vecchia stiamo parlando tra l'altro, che normalmente era Tutubella e ha girato, ha rallentato, questa era la testa abbassata, che non hanno visto che era ferma, uno se ne è accorto, allora si è spostato, come si è spostato, ha toccato l'altro, tu devi vedere cosa Zani fa, la moto si è sbattuta a guardrail, uno è riuscito a salvarsi, tutto fracassato, però si è salvato, l'altro gli ha spaccato, gli ha aperto in due la testa, c'era il casco, l'ha aperto, spaccato la testa. Allucinante. La moto come è bella e brutta, è come il mare, no? Limitati dei bini. No, no, guarda, la moto io, bellissime, me le guardo, soprattutto le moto d'epoca, però lasciamo perdere, no? Ho visto cose troppo brutte, amici carissimi, Francolino Meloni, lo stesso è morto in moto, ho visto quello lì morire, lasciamo, che lo conoscevate pure, Melis, quello che faceva nei trasporti, Francesco, non so se lo conoscevate. È Angelina quello che è morto, che andava anche all'estero, lo conoscevi? Roberto? È certo che lo conoscevi, ma io conosco gente che si è fatta male, prudentissima, mio cugino con Guzzi, Lucia Nevada, la persona più tranquilla in moto, già di carattere tranquillo, in moto Beggio Ghimai, fermo al passaggio, sottopassaggio di Santa Maria, fermo al semaforo, è arrivato questo in macchina, a biliardo in pieno, era distratto, si è fatto 3 mesi di corso, di ospedale. E questo io sono andato a Motor 1, la vera. Mi diceva che era nera sulla mano corratto, che io sono passato tutto un giro grande affatto. E niente, questo qua, contro mano, questo cazzo è embriaco così. L'ha preso in pieno, poveraccio, il motore della testa e tolto la gamba. Sangue che ha perso, poveraccio, ero lì, guarda, ancora appena. C'era l'elicottero dei pompieri, 45 minuti per caricarlo sull'elicottero e partire, una vergogna, l'hai fatto morto di sanguardo. Attenzione, Tonino, Kawasaki. Mia bidone, amico, ciao bidoncino. Tonino, Tonino. Botticella, avanti. Ciao Giuseppe. Ciao Tonino. E beh, sto bene. Tutto tutto bene, c'è una bella ruota comunque, va, avanti Roberto. Adesso facciamo riprendere il più lontano Claudio da Muros e poi Riccardino che è molto in parcheggio. Avanti, sperando di non dimenticarmi qualcuno. Avanti Claudio. 5 SL, non è sì, la moto diciamo la quanto è bella e brutta. Sì, io prima ci avevo uno scooter quando c'avevo 14 anni su una Aprilia SR lavoratissima, tutta a polini era, diciamo, sì, mi faceva quasi 140, mi faceva, ce l'ho ancora in garage, sì, in quell'anno mi ero caduto, mi ero sfasciato tutti i denti davanti, sì, infatti me li hanno messi nuovi, diciamo, sì, e anch'io, diciamo, per una parte già ne ho tirato, sono caduto due volte, sono caduto, diciamo, sì, ed è una cosa, infatti non ci sto più uscendo, infatti in moto, no, dalla volta, diciamo, poi sì, mi avevo comprato poi una 125, ho avuto anche la Honda MSR, anche quella elaborata, mi faceva i 180, mi faceva, però non ho mai fatto, capito, di ragazzate, diciamo, con la moto, diciamo, perché dalla volta che ho sbattuto il muso per terra, diciamo, mi è servito di lettura. Ok, vai Riccardo. Eia, comunque vi saluto che devo portare tutta la roba dentro perché ce n'è un bel. E qui avrò una sopra casa, non avrò più problemi. Sì, anche io, dai, è tardi, anche se domani è sabato, ma domani è un po' impegnativo. Dai, saluto di nuovo a Riccardino, anche io vado in corretti, saluto tutti quelli che ci sono qua in ascolto, iniziamo da Gianni, Doppio Room, Antonello, che ho sentito di Sugita, Pomponio, Claudio D'Amuroso, Giuseppe, credo Leoncino, almeno per come mi ricordo io, poi chi c'è? Ricordatevi se c'è qualcuno, magari mi sono dimenticato, vi saluto da Tonino, anche a te, saluto, dai, saluto a tutti, ho perso il conto delle persone, diciamo una chiacchierata, dai, diversa dal solito, oggi si è parlato un po' di moto, dai, correnti, ci sentiremo in altre situazioni, ciao ciao a tutti. Ciao Robbe, ci sentiamo, dai, buonasera. Ciao Roberto, buon pomeriggio, alla prossima ci sentiamo. Avanti Riccardici, c'è ancora. Ok, grazie Torino per il mic, anch'io saluto tutta la ruota, saluto a Claudia D'Amuros, Leoncino, a te, poi a Gianni, Antonello, se mi sto dimenticando qualcuno, va bene, corretti per me, ci sentiamo domani, ciao a tutti. Ciao Riccardino, ciao, buon corretti, avanti Giuseppe per me. Leoncino. Eia, avanti. Buonanotte, ciao Riccardi, buon corretti, ci sentiamo. Avanti Muros. Non fare pigiare, scolti con lo sporco microfono. Ciao Robbe, è stato un piacere, a me le moto piacciono tantissimo e domani parliamo di donne, parliamo. Ciao, buon corretti Robbe, facciamo giri belli, Pomponio, buonasera, vai. Eia, buonasera Gianni, come mi ascolti? Bene, sì, sto conoscendo, o sono basso? Ti porti fischi attrezzo. È troppo forte Antonello, noi qui è una roba sperimentale, poi metteremo la parte, sto usando un apparato, c'è un trasformatore enorme, un'azione. Claudio mi ha sempre sentito. Sì, però, sì. Oggi è venuto Matti, si è arrivato qui il 999 perché l'ho controllato e questo si è inginocchiato, va bene, te lo guardo, non romperlo, che questo è... Ciao con tutti. Padre nostro, sì, ti venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo in terra, dacci il nostro pane quotidiano. Qualcuno sta pregando già. Ma ascolta, quello scherzo che ti avevano fatto a Ussi, poi sa tutto chi era che te l'aveva mandata quella persona. Già. Cosa è, dai? Comunque, se già vuole parlare di donne, ricordi con che la bambola gonfiata cos'era che è volata alla carrozza, quella era cicciolina. Mia, già. Gianni. Non è più fabbite. Ok, c'ho il collo, poi c'ho qualche lame la sponga nel microfono, Torino era in Spagna. Okay. Io con te ci sono cascato, mi Torino. Con Gianni no, però, con te ci sono cascato davvero, ma c'era un bailato. Ma cosa si dice, non si è abitato. Una volta ho detto che mi rispondo, non casse un bidon. Poi è iniziato piano piano. Tony, l'ho fatto. Il segnale mio com'è da te? Dimmi com'è il segnale, quello mi interessa. Sì, no, senti qua Gianni? No, già, a proposito di Schizzi, ti ho detto, quella donna che ti ha mandato qui, saputo chi era? E a me come ascolti Gianni, lì a Uos, dammi il controllo, come sto uscendo? 9:30 sei arrivato, passa quella roba, perché poi splatteri a Antonè, che hanno ragione, cosa dicono. Dimmi io come ti sto arrivando Antonè lì, da te, come sono Antonè? Una vita di nulla. Guarda, vivi veramente bene la verità, eh. Non 25, la 25 è chiara la verità, Sei perfetto qua. Qua Gianni da Marolo e Spana, con quello a Spanato 9:20. E ok, beh, per forza, l'ho aperto che l'ha parato stasera, c'è un trasformatore, Antonè, questo, di modulazione, quanto il palmo della mano, già. E questo è un sommercamp, hai capito? No, ce l'ho per collezione, lui mette il dammelo qui perché ne ha visto uno che c'è il display, lo ha avuto quello, questo display non è... Display! Hai capito, e niente, però l'ho dato perché c'è il 45 qui e là, però e questo è roba sperimentale, prove pugna che iniziale voglio attaccare, perché fra poco mi arriverà la della luce, riprenditori. Cappa. Comunque dai, abbiamo un discorso, io sto cercando qualche apparato a stazione fissa da comprare subito. Gianni, ce li ami, ma non te li dà che stai c***o. Gianni, niente tu. Ma dove tieni? Non rispondo. Attenzione KP2. Ok, Tony, sì, perché c'ho le lamelle in questo microfono un po' sporche. Cosa stai cercando? Tu mi hai detto, cosa... Che apparato stai cercando? Un apparato base, stazione fissa. Apparato base, cioè i cosi vanno ridotti, cioè i Constat, questo 574, che adesso Flavio l'ha spento, no, base, cioè c'è ne ho, ma capito, sono i Constat, non li do, il Noiti, uno l'ho dato a Claudio, a Salviero, però quelli li lascio, quelli non ne ho per il momento, però mi devo fare un giro, quando scendo giù a Iglesia, là, ce ne sono tanti apparati di quelli, vedo di se ne porto qualcosa, te lo do qualche nuovo, riprendi. Già te lo pago, non c'è problema, capito? Sì, sto cercando perché mi interessano quelle immagini, voglio riprimi il mobiletto che ho fatto, il mobilone, diciamo. E niente, veicolare per macchina non mi interessa, mi interessa soltanto quelle immagini. Tonino, togliti la mano il rizzo da tasca, per favore, hai capito? Cioè, non ho capito Giuseppe, cos'è? Adesso togliti il rizzo da tasca, per favore, togliti la mano la tasca e non ti toccare le palle da tesi. Il riccio da tasca. Ma Giuseppe, stai sbagliando, perché io proprio queste cose non posso dire, perché Antonello Pomponio sa benissimo che l'ha fratto Stefano, il tipo che sono io, solo che ho, quindi non penso che sono a questi li vedi con riccio in tasca. Avanti Pomponio. Ah, qui no. Non è per quello. Non stai facendo quello Giuseppe, non si è spiegato bene. Come ha parlato, ho capito quello io. No, tranquillo, non si è spiegato bene, ci manca le... Tranquillo, togli. Proprio quelli che ti vedi non ci sono a capo. Io già gli ho fatto una domanda ma non mi ha risposto. Dimmi no, persone, le lamelle del microfono delle mie... C'è le lamelle? Sporche, vorranno pulite, mi dà fastidio molte volte quando schiaccio, hai capito? E adesso già sta andando, domani le controlliamo. E che può essere anche il rene della saliva, non lo so. E niente, dimmi già, provi a venire. Ho detto, a proposito di Schizzi, poi avevi saputo chi era che ti aveva mandato quella tipa. Quale tipa? Quella che ti aveva, che si era avvicinata a te, ti ricordi? Che paese? Quella bionda. Bella bella. E vabbè, se avvicina una mica da te, Gianni, scusa, a un certo punto. Tu cosa fai il tempo suo? Non avete detto niente. Ma era uno scherzo che le avevano fatto, già di gente. Non lo so, e ogni tanto se ne avvicina noi già. Ogni tanto, hai capito, ma io già le faccio contente e pesi, capito io. Scherzo, le do porta fino al limite, sì, sì. È pronta a rompersi, però io già sono preso la sposata, hai capito? Non è Fulvio di Rogne, le posso, diciamo, portare, ho detto, al punto per accompagnare, però è oltre non si fa, hai capito? Perché non siamo più ragazzini già, riprendi. No, ma quello si supponeva che fosse uno scherzo, quello che tu avevi col patamento, tu nulla ne sai. Sì, perché una cosa è, dopo, poi mi ha fatto questa tipo di musicale, il nome, cioè sì, però io non, siccome c'ho anche un altro cugino che a lui le piace a Roma, adesso non voglio che non lo vedo, no? E mi faccio per il discorso. Ma poi molto, in pensione, che la mia pensione, c'è cioè, nel più di me, lui è separato, e ogni tanto di questi scherzi ne faccia qualcuno, ma io una volta ho preso e ho caricato una, qualcuno si trovava al zio e ce l'ho portata in paese da lui, e il zio si incazza, e non vedo anche da femmina, non sai che devo portare la voce, cos'è un 6 mesi, no, e femmina non che mi tradate la nacchia, la iala, la chiesa femmina, ho portato questa tipa già, anche io gli ho fatto scrivere. C'è cazzato l'uomo. vabbè, tu mi dai, quei tempi qui. Purtroppo di quei tempi, adesso che ci sono più grandi, ci sono più seri, ogni tanto qualche spagnolo già arriva. E anche da Brescia. Non è da Bergamo. Oh, Bergamo, non me la metto più. Non mi subito, Bergamo e Brescia sono vicini. A parte Giuseppe, niente, Alessio. Dimmi tutto, sono qua. Non li prendi? Sì, sto facendo il guardiano, io lo sai. Quando esce Simona la cameretta, c'è il cane che esce prima, me la cocco subito, dopodiché ci devo essere io. Se magari cadi, speriamo io, ma comunque sia. Sono così purtroppo. Ma Giuseppe l'ha preso? No, Giuseppe è qua, cosa c'è? Di che si è offeso. È su questo canale, grazie a Dio. E se l'ho chiamato, non risponde. Aspetta, Giuseppe, ci sei. Cosa vuoi? Dimmi. Fa da te, tutto a posto. Guarda, non te lo dico, sono già freddi. Non vuoi dire più cosa vuoi. Se lo dice io, vuoi il culetto o vuoi l'altro? A un certo punto. Perché insomma. Oi. Comunque siamo qua, siamo a posto già, siamo sali. Grazie a Dio. Avete parlato di lui? Sì, adesso forse se ne ricorda. Forse. Dimmi tutto. No, ti ricordi quando c'era la sede di adulti numero 5, vicolo chiuso? Radio Club Nord Salvezza. Sì che me lo ricordo, a voglia. Ma non ci frequentavi tu? Sì che ci frequentavo. Era lì al centro storico, in piazza Colonna Maria, più che altro era lì. Io non ci andavo mai. Sto sbagliando, era via Luzzatti, vicolo chiuso, via Luzzatti numero 5. Esatto, io non ci andavo mai. Quello è dopo, quando c'era cosa... fa quello come si chiama, che il fotografo. C'era Giulio Columbano, presidente. Fotografo, io ho capito, mi stai dicendo a Serra. A Saturno stai dicendo. Antonè, Saturno. E io esatto, sì. Aspetta un secondo. Quei tipi anche qui si facevano caccia al tesoro, mangiate di fainì. E lui frequentava farmacia, camomilla, tutti quelli lì, Flavio Antonella. Ma se non mi dai, io ho conosciuto una signora che la figlia tra la Maracchino e abitava sopra Santo Francisco. Aspetta come entrava, come nuvoletta. No, camomilla e farmacia erano due maschi, erano due frattini e abitavano la latte dolce. Calomilla è la mamma di Nuvoletta che ho conosciuto io tempo fa. Ed ho fatto anche dei lavori in campagna che ho fatto. Vabbè, comunque, quelli che dico io erano due frattini, Calomilla e farmacia. E qui sono stati anche gli altri, un altro fratello, Leonardo, eccetera, eccetera. E farmacia Leonardo prendevamo per il culo sempre. Poi c'era l'altro più grande di Leonardo, non mi ricordo come si chiamava. C'era lasciato con la ragazza e stava sempre per consolare. E i frutti di Pesciolino? E i bulughisci. Stava più occhi, fa calentarsi. Pesciolino. Io so anche dove abitavo. Anche io, a botte qua. E allora? Sono il palazzo di popolo. Io mi ricordo un passato, salendo con la macchina, lo vide con un vestito bianco, tutti e due, grassottilli, con l'ombrello in mano, e il padrone preso scesi, mi diceva il culo, in diretta. Paga, lì, venne la bocca di gente, no? Minoncino. Io sto qua, sono in ascolto, rimango con tutti le re, dai, sto facendo una cosa e poi mettiamo dopo, dai. Non fanno le orecchie di poco però, già entra, capito? Un buio. Oh, stanno aspettando che li facciamo addormentare, no? Noi parliamo e loro si addormentano. Allora, tu mare. E Gianni che fine ha fatto? Gianni, capri tua. Ok, no, i battagliano con la Lamele, tu lì. E poi, cioè, a te lo ricordi a coso che veniva in paese spesso con un trago camomilla, a Pinuccio Emerson, poi te lo ricordi? No, non l'ho mai conosciuto in persona, comunque. No, manco io. Io mi ricordo il nome, però nominativo sì, non mi ricordo la persona. Forse l'ho anche conosciuta, ma non so chi sia. Ma tu, capri due, quanti anni ci sei frequenta? Ok, già aveva già un 850 color cappellante, Pinuccio, con la capotta nera, e con la antenna Sigma, quella con la molla grande. Capri due, oppure, non mi intendi? Sono parlo spagnolo. Attenzione Gianni. Ok, tre sono a brighere come. Si vede che c'è qualche cosa proprio di sporco nella mente, ma in qualche contatto avrà fatto. Ok, per farlo parte ci voglio un 3 ore adesso. E niente, tu i vecchi tempi, quelli, oh. Dal 72 sono frequenta. Hai capito? Passate le cose sono parecchie, a Cicinato, a Ginevra, Giovanni Freccia, Balfal Pegastro, lì tantissimi le conoscevo. C'è un quaderno, quello è rimasto giù a casa lì, c'erano tutti i nomi artifici, ma mi divertivo, non è mica se ho fermo, mi divertivo un mondo, li prendi di altro. E dimmi se hai conosciuto a Trascovia. Gianni, hai conosciuto a Trascovia? No, non me la ricordo sinceramente. Conosciuto Luce del mattino, tutti quelli che hanno nominato Gianni Capri 2 li conoscevo. No, quella è anch'io, no? Cioè, io ce l'avevo con Capri 2, dato che lui mi ha elencato al 72. Gianni Capri 2, a Trascovia l'ho conosciuta. Ok, Tony, no, è tre ore ci metto adesso a schiacciare questa roba. Non mi ricordo di tutti, Tony, ne ho conosciuto tantissimi, io ci passavo giornate intere perché ero ragazzo. E ho conosciuto a Coso, a Marinella anche, a Marinella e... Ma quello è dopo. Ginevra, l'ho già detto, ce n'era un'altra che modulava. Ginevra, la moglie di Friccio. La moglie di Coso, già, te lo ricordi a Cardinale. Anonima. Marti Pescatore. Si chiamava Anonima la moglie di Cardinale. E la moglie di Trippio era Luce del Mattino del Casino. Sì, me lo ricordo perché era venuto a trovarci, Marti Pescatore. Mi sembra che faceva portiere di albergo, confermi? No, era un pescatore, modulava la moglie. La notte non c'era mai il marito perché era in mare e lì modulava. Aquila Rossa. Della notte. Un'infinità Sassari ce n'erano da a Primer ho conosciuto Gianni Davis, Primer entrava anche e tantissimi Barone Rosso, un casino il quaderno, tutti ci sono, se no non è in questa casa, la casa ormai è chiusa, mia sorella ha cambiato le serrature, tocca a lei e ancora c'è il quaderno con qualche cosettina di appunti che prendevo all'epoca, li prendi? aspetta che ti dico ancora più addietro ancora, Gianni il doppio d'uno non l'ho mai conosciuto, perché è possibile, non c'era. A Paperino, te lo ricordi chi era Paperino? Ma a me stesso. No, a Capri 2. A Paperino, te lo ricordi chi era? Ora, Paperino mi sembra che all'epoca modulava da usi, non voglio sbagliarmi, non voglio sbagliarmi. Mi sembra che modulava da usi Paperino. Non mi chiedo di sbagliare, ma questo non è molto, molto lontano la roba. Poi gli altri. Ah, l'altro giorno per caso ho sentito Anatra di Goma, non so se è quello che conoscevo io, e quello avevo fatto, era venuto a trovare quello che stavo lavorando a Itti, il giorno che stava piovendo, c'avevo un di quei camioncini che sicuramente faceva dei trasporti tipo palloncino, e stiamo parlando degli anni, primi anni 80, Anatra di Goma, sera qui col baracchino a cielo, ho sentito questo nominati, questo lo conosciuto tanti anni fa, e ripeti. Comunque stai sbagliando di grosso. Paperino era un personaggio molto, ma molto, ma molto, molto altolocato, sassarese. Quando mai non ci arrivate chi era? No, no, Tony, te lo consiglio. Bravo. Non ce l'ho la testa. Tanti li ho conosciuto, Sassari, Carlos Primero, ho conosciuto... Poi, questo va. A Cincinnato, hai capito, e... però proprio non arrivo a questo che stai dicendo qua in seguito, però non ho capito il tuo nome. Non mi vedo io, non c'è il casino. Chi era? Allora, Francesco Cossiga, ex presidente, la buon'anima perché non c'è più, è morto. A quelli tempi, parlando degli anni 70, c'era anche Luisito, viene Sicilia. Chissà. C'era Cerotto, Petretto, c'era Fiucina, Gianni Capricorno. Io ti conosco qui. Sì, ma già io quando ho iniziato con le persone che ho sentito, ci ho parlato, tu non c'era quella frequenza. Io vivo la vita, non attessi, quanto ci saranno 40 anni. Ci sto parlando degli anni 70, amico. Sì, sta tagliando col microfono, so, sì. Quello che mi stai dicendo lo riconosco tu. Quando è... Sì, ma che ho finito di parlare, poi Monforte, Rosetta, Renata, Uranio, che è il marito di Renata, Ferroviere, poi c'è Altalena, già, sei parlato 50 anni fa, me. Io mi ricordo, io me li ricordo tutti lo stesso, quelli che stai nominando, conosco in frequenza, non di persona, ma in frequenza di tutti i sì. Poi c'era Itrolai che lavorava alle calzaie qui dove c'era San Camillo, entrava come ancora. Lui non era neanche nulla, non era ancora niente, è venuto lui e Coso e Alfa 1 con una Giulia bianca con la Colibri dietro, e io nel laboratorio perché ci andavo spesso a trovare a testa verde. Bud Spencer, Massimo, Piccola, Casula. Hai capito che era questo signore qui. Di testa sta. Tanti in Torino ne ho conosciuto genere di gente. Hai capito, Fiocina me lo ricordo. Te lo ricordi Lucchetto, Radio Caterina, Sambuca, Palpalpegastro, Tisi, e per tutti conosciuti di frequenza. Dell'Alpina, una delle vecchie, si va per Scuvia. Dell'Alpina me la ricordo. E dai, che rivolto ci aveva dell'Alpina, dai, dov'era? No, lo so, no, io non la conoscevo, ma in frequenza la sentivo. E guarda che tambata che non farà più, forse è molto burro. Allora, Dell'Alpina aveva rivolto Mercerie e Via Grazioletta. Chioppo di Neve. Chioppo di Neve, Teresa, Montefurro. Sarebbe prodotto già, ma detto. Mario Pidigatto. Pidigatto era Fabrizio. No, era Mario la. Mario, ma che ha avuto l'ictus, era tutto paralizzato a parte destra. Grazie a voi. Ma che grida? Mi ha fatto spaventare il gatto qua. Gianni Capricorno era il meccanico che c'era in via dei Grepi, il primo a sinistra. Ma per sì è pensionato, aveva l'officina in via Sabelline e poi ha chiuso che non si faceva più, dai, grande età. Dove abitava, hai detto Gianni Capricorno? Dite a Marco. Hai sbagliato già, Gianni Capricorno, attraverso via del Trento, vicino a via del Trento. Gianni Vacca, ufficiale meccanica, via Sabellina, prima di vedere i gremi. Non me lo dire a me, perché mi servivo da lui. Ma di che anno stiamo parlando che abitava a Cargeghe? Ti ho detto, in che anno abitava Gianni Capricorno a Cargeghe? Quando c'erano le fantane nelle mani. Inizia a andare strano, eh? Perché 93 aveva con l'officina via Zambellini, quindi è possibile. Guarda, farò di tutto per ritracciarla a Gianni. E poi vediamo chi te la conferma. E certo, che è un amico, anche se non c'è più adesso in frequenza, neanche nel suo trabacco che faceva. Avanti Gianni, c'è cioè, poi fa girare Popponia. Se non risponde, glielo ho lanciato con Popponia, non risponde. Sono qua, dimmi tutto. Chi è? Salute. Sono qua, non ti preoccupare. Salute a tutti. Kappa, da io mi sa che me ne vado a nanna. Mi sto prendendo voglia di andare in bagno, mi sento un po' e poi magari mi prendo là. No, sto più che altro rispondendo su Facebook. Con Manuele, capito? Manuele Ginco, e quindi sono una cosa all'altra e quindi a volte lo prendo nemmeno. Vabbè, ma senti, io ti seguo, però non è che vado a letto, cioè sono già a letto, sono appoggiato. Mi guardo un po' di televisione, al limite. Comunque, Capri 2, dopo X giorni, ci sentiamo. Oh, Capri 2, se procuri, ripeto, la stazione fissa, la mio fischio. Cappa. No, a me mi piace la stazione fissa, ripeto. Mi piace. Io le cerco, le compro, quindi. Doppio Rucci, sei qua, Popponi, avanti. No, sono qua, ma devo passare per te. Cioè, se vado per te è abbassare per lui, perché c'è una radio allucinante, guarda, Gianni. A un certo punto, guarda, mi sembra di essere, in Piazza d'Italia mi sembra di essere che lui, guarda. Era meglio che facevo cazzo sindacalista, è la verità, perché non è possibile. Ma a lui basta il microfono normale, per fare sindacalista. Allucinante, c'è una radio, boh. Ma veramente forte lì, è veramente forte. Ma che veicolo sta usando? C'è uno Shure. Questo è da me che non ho mai sto usando. Ma non si deve andare a in domenica, prega. Oh, Gianni, che microfono stai usando? Non lo passi lì, lo sai. Ma lo passo? Non ce la fai passare, non succede che ci può fare per lui, una cosa allucinante. Tu ce l'hai diretto, ce l'hai, cazzo, sì, dove sì? E io ho messo nel casino, Antonio, e poi c'ho un microfono normale e sono liscio. Beh, signori, io vi saluto, vi auguro la buonanotte. Siamo tutti alle prossimine. Un buon 144 quando deve fare 150, dai, quelli... Sì, la verità, guarda, sei una cosa allucinata come radio, Io non so cosa dirti, la verità, sei l'unico, mi sembra che sei la domanda di cosa, di quello che faceva a Tonio Kawasaki, cazzo, c'era la moglie, c'era la voce calda, tu sei uguale, il marito, guarda, è una cosa allucinante, non c'era nessuno che lo crepava, cazzo, con il microfono male, con quello amplificato, con... tu sei uguale, c'è la timbrica allucinante, guarda. E cappa. Andrà bene, ma insomma, oh Gianni, cosa hai da vendermi? Si può sapere? Ciao Giuseppe, ancora ti ci sentiamo. Oh, doppio rum. Sai che dopo tanto, ma dopo tanto veramente sono riuscito a ottenere una visita elettrocardiogramma. Indovina dove me l'hanno data, è più vicino. E dove? A Nuoro. Allora. Metto, c'è cagliare il Nuoro, cosa decidi? Ho detto Nuoro, intanto vado dal mio figlio che è già posata, quindi due pazzi, capito? E ce l'ho mercoledì che viene. Allucinante però, con tutti questi che abbiamo qua, darci il culo. E purtroppo, già, io lo devo fare per forza, per perché mi sembra per due motivi. Uno, per entrare a lavorare subito, perché io questo non l'ho fatto, le modifiche del lavoro giustamente c'è, e cosa ne so se si è peggiorato, ho capito. Due, per sicurezza, perché sparo sicuro qui. E mi serve uno e l'altro per l'Ips domani, che all'altro devo fare la visita per la pensione che sto prendendo per confermare la fiducia. Ma io per andare a loro me la ripagata la visita, sinceramente, 80 euro me la ripagata la visita. No, me l'ho chiesto a 120. Io con 50 euro metto da Giulio, vado e torno e passo pure a Udine a trovare a Stefano. Vado anche in bagno. Sì, ho capito, capito, c'è parlato per quello. Comunque sia, se vuoi, lo sai che ho sempre con l'apparato in vendita, 757G, 500 contanti, isolanti e basta, subito, se no se la prendi in culo. E vabbè, ma i microfoni cosa ce l'hai a fare se non li hai giusti, non li usi, scusa, niente che ho i microfoni marchiati e poi non li aggiusti. Io ho già capito già, esce bene, non è che si male. Il fatto che c'è la voce un po' alta, mi sembra abbia dato il Mario Massimi, tale uguale. Se io do la parata Mario Massimi, esce uguale come esci tu, tale uguale, precisamente dico. Sai, proprio da la modulazione alta e... non lo so, il discorso è quello. Passano. io sogno, che cosa dite la verità, perché cazzo stai trattando tutti in radio stanotte. Ma spiegami una cosa, ma secondo me è questo paradiso. Ma cosa tu? Ciucucciù, ma questo tu? Allora,